Allora, raccontaci un po' quali sono dopo questo rimpasto di governo, qual è insomma il clima che si sente in Grecia e soprattutto ad Atene, soprattutto dalle compagne e i compagni. Sì, è un, diciamo, un po', a dire la verità, è un po' triste la situazione, un po' l'ambiente non è, diciamo, di speranza, di comunque di vedere che qualcosa stava succedendo come 2 settimane fa, ma c'è stato un cambiamento subito, un cambiamento di animo subito, e adesso ci sono, soprattutto tra i compagni e le compagne, tante assemblee per questa settimana per vedere un po' come continuare, cosa fare in questa situazione che è cambiata, come dicevamo, tanto. Da una parte il sostegno a Tsipras come figura politica non è cambiato, sorpressivamente cioè, è facile da vedere persino per strada. C'è tanto supporto a lui e c'è una comprensione che a me un po' mi sembra difficile da capire come mai, cioè com'è che non è cambiata la percezione. Invece dentro Syriza la situazione è molto tensa, sicuramente tanti diputati se non hanno demesso ormai lo faranno durante le prossime settimane. E quindi, benché l'appoggio elettorale a Tsipras sia grande, non bisogna discartare che ci siano elezioni in anticipo, perché potrebbe essere che Tsipras non sia capace di continuare col suo gruppo parlamentare unito. Questo venerdì c'è riunione dal Comitè Centrale da Syriza, e lì è che si verrà quanto di maggioritario è il supporto a Tsipras. Al di là di Syriza, dentro i movimenti ad Atene, che quelli che io conosco un po' più vicino, quello che succede sono 2 cose. Una è tanta sorpresa: non si pensava che questo cambiamento politico ci fosse così veloce, quindi non erano pronti a rispondere, e da un'altra parte è un po' più frivola, se volete, però che è molto, molto vera, è che Grecia allo Stato praticamente non succede nulla. Adesso, questa settimana, tutti i compagni e compagne stanno preparando il suo viaggio alle isole, e quindi secondo me sarà a settembre quando si ritornerà a fare politica, a vedere come si può continuare con questo atteggiamento del governo e con questa nuova austerità di sinistra, diciamo. Senti, tu hai vissuto insomma anche a Barcellona, in Spagna. Volevo anche che si attendava di commentare un po' quella che è stata anche l'esperienza di Podemos, le elezioni parte vinte, che paralleli vedi con Tsipras e questa decisione poi dei movimenti, soprattutto in Spagna e in Grecia, di appoggiare elettoralmente appunto un candidato. Sì, ci sono tante semblanze, tante cose simili tra Syriza e Podemos, però tante sfumature diverse, diciamo. Da una parte Syriza è molto più vecchia, quindi Syriza è un partito che ha un suo percorso molto legato a un'idea di vecchia sinistra, tra virgolette. È un partito di sinistra che è diventato molto grande. Invece Podemos ha più un'anima più movimentista, benché man mano la sta perdendo, ed è appunto uno dei dibattiti più vivi adesso cioè all'interno di Podemos. C'è la parte, diciamo, fa più riferimento ai movimenti e che non vuole diventare un partito classico, un partito vero, e c'è la parte, diciamo, più legata sia a Pablo Iglesias che a Íñigo Errejón, cioè tutti e due i più noti di Podemos, che vogliono costruire un partito intorno a se stessi, e questo sta provocando dibattiti, discussioni molto, molto intense all'interno di Podemos. Invece a Syriza non si è vissuta così, ed è appunto adesso il momento in cui queste voci che dicono che, cioè, i più critici si dividono tra quelli della piattaforma di sinistra, che è legata alla Fasani, cioè, diciamo, a una visione più ortodossa, più di sinistra classica, e a tanti altri che dicono, davanti a questo momento politico, quello che c'è bisogno è rinforzare i movimenti, perché abbiamo visto che dal governo solo non si può continuare, non si può combattere l'austerity. Quindi sono curiosamente due movimenti e due situazioni politiche molto legate e molto diverse allo stesso tempo. Cioè, gli stessi dibattiti si stanno succedendo sia alla Spagna sia qui. Alla Spagna è successo con le elezioni locali un fenomeno che a me sembra molto, molto interessante, è che in quelle città dove Podemos non è andata in elezioni da sola, cioè dove si è fatto una candidatura più di movimento, cioè a Madrid e a Barcellona, sono le due città dove il successo di questo progetto è stato più grande. Invece in quelle città, in quelle regioni dove Podemos è andato da solo, il suo successo elettorale non è stato così grande come si pensava poteva essere. Questo c'ha molto a vedere con i dibattiti che ci sono adesso, perché a novembre ci sono le elezioni generali, e da una parte la sconfitta di Syriza e da un'altra questi dibattiti interni fanno per Podemos una situazione che non so come la gestiranno. A me piacerebbe pensare che hanno capito che è successo a Grecia e quindi non vogliono ripetere gli stessi errori, non vogliono confiare a un leader che diciamo prende in mano il partito e si fa diventare se stesso come l'unica voce legittima da dentro il partito, che è quello che sta succedendo adesso con Tsipras e Syriza. E mi piacerebbe pensare che Pablo Iglesias non farà così, avrà un atteggiamento più legato a quello che le sue basi e i movimenti dicono, però non sono sicuro, cioè questo è quello che mi piacerebbe, però non sono per niente sicuro che sarà così. Senti, si è parlato della Grecia e della crisi umanitaria che c'è in Grecia. Volevo un po' capire se c'è da parte dei movimenti, delle compagne, dei compagni, dei luoghi di solidarietà, di aiuti, come viene vissuta questa cosa, quanto è reale? Sì, soprattutto dopo il 2012 è una situazione veramente dura, quella crisi umanitaria che c'è, è per questo che anche le iniziative intorno ai bisogni più basici sono molto forti. La rete più forte in questo senso è la rete formata dagli ospedali e le farmacie autogestite. Ci sono ad Atene praticamente 40 punti di soccorso, ospedali autogestiti, sono una rete molto veramente forte, che fanno un lavoro molto, molto interessante, perché dopo le riforme legislative dal 2012-13 la Grecia è un paese in cui il 30% della popolazione non ha diritto alla sanità pubblica, quindi il 30% è stata esclusa dalla sanità pubblica, e questi ospedali autogestiti stanno appunto loro cumplono questo debito cumplono dal varie specialità mediche, medicina generale, fanno anche la farmacia, cioè è un lavoro molto molto importante. I centri sociali a Grecia non sono così forti come all'Italia, quindi non sono punti di riferimento per i quartieri così importanti come alle città italiane, però comunque ad Atene ce ne sono parecchi, e soprattutto in periferia sono punti cioè, punti importanti per capire come si gestisce appunto la crisi umanitaria. Nel centro non si vede così tanto, nel centro i compagni si organizzano più in collettivi, non tanto attraverso i centri sociali, e comunque questi ultimi mesi c'è stata paradossalmente una situazione in cui dai movimenti si è avuto confidanza alle istituzioni, cioè al governo. Stavano tutti aspettando cosa facesse il governo, e io immagino, mi piacerebbe pensare che dal settembre si riparte con un rinforzamento dei movimenti, visto che l'opzione dal governo è fallita. Senti, invece, per quanto riguarda i migranti, diciamo che la Grecia vive un po' la stessa situazione dell'Italia, quindi molti sbarchi, i centri di identificazione ed espulsione. Com'è la situazione in questo momento? È una situazione in alcune isole come Lesbos e Kos, una situazione molto dura, e arrivano migliaia di persone ogni giorno. A Lesbos c'è una rete che si chiama... c'è un posto che si chiama il villaggio di tutti, sarebbe la traduzione, che è una rete nuova formata da compagni e compagne da Lesbos, che sta organizzando un punto di accoglienza, diciamo, per evitare i CIE e i punti di identificazione dei migranti. Si sta rinforzando ogni giorno, praticamente vanno compagni di tutta la Grecia a collaborare lì. E ad Atene non c'è questa percezione degli arrivo massivo, perché praticamente passano poche ore qui, cioè i migranti e i rifugiati che arrivano in Grecia praticamente tutti vogliono andare in Germania, quindi Grecia è soltanto un posto di passo, non si spostano qui più di qualche giorno per pianificare il viaggio. Adesso il punto più caldo, più tragico dal punto di vista umanitario, è la frontiera tra Macedonia e Grecia. I migranti fanno il viaggio dalla Grecia a Ungheria camminando, e ci sono migliaia adesso, in questo momento, migliaia di persone camminando dalla Grecia a Ungheria, attraverso i Balcani, attraverso la Serbia e attraverso Bosnia. Alcuni, e questo, cioè, qui sarebbe dove secondo me dovremmo puntare tutti gli sforzi di aiuto ai migranti durante i prossimi mesi. A questo proposito, il governo di Tsipras, insomma di Siriza, ha detto qualcosa sì. anche sui centri, insomma? Sì, il governo ha iniziato a un piano di trasformazione dei centri, passare dai centri di detenzione a centri di accoglienza, diciamo, di aiuto. Questo è un piano che ancora non si è compiuto, però la situazione dal punto di vista repressivo è vero che è cambiata durante gli ultimi mesi. Alcuni dei centri più polemici si sono chiusi, quelli che erano stati più contestati dai movimenti sono iniziato a chiuderli, e altri li hanno trasformati in centri aperti, cioè in centri dove si può passare la notte, però che non è un carcere, diciamo, non un centro di detenzione. In questo senso io credo che il governo di Tsipras non abbia fatto abbastanza, però è un cambio riguardo a quello che succedeva prima abbastanza grande. E ci sono tipo le espulsioni, i respingimenti? No, praticamente soltanto, per quello che ho capito io, soltanto quelli che riguardano alle espulsioni penali, cioè dopo il giudizio e giudizi come pena, diciamo, non ci sono espulsioni dei migranti. Però è vero che anche in questo momento praticamente tutti che arrivano alla Grecia sono rifugiati che vengono dalle diverse guerre, cioè tanti afghani, tanti siri dalla Siria e tanti iracheni, quindi vista, anche dal punto di vista dal diritto internazionale, è gente che non si può espulsare, perché non si può espulsare qualcuno a una guerra, quindi è bassato tanto il livello di espulsioni, il numero di espulsioni, però per questi due fattori, da una parte per il nuovo atteggiamento del governo, per un'altra perché adesso non sono più migranti ma sono rifugiati. Va bene, se non hai altro da aggiungere io terminerei anche qua, casomai ci risentiamo a settembre per capire un po' come riprenderanno anche le lotte, i movimenti in Grecia. Perfetto, allora ti abbraccio e ti aspetto a settembre.